aspettavamo un pochino qualcosa, avevamo un po' timore, perché abbiamo visto le altre città, quello che era successo negli altri anni, abbiamo visto Milano, Trento, e effettivamente una città con 150.000 abitanti, ospitare 400.000 persone, per lo più uomini anche di una certa età, quindi anche con una cultura probabilmente differente, ci preoccupava un pochino. Ed è stata peraltro proprio consegnata la città come un regalo, così, se fosse un grande appartamento, un grande housing, e quindi già ci preoccupava, però non credevamo che fosse così esplosiva la faccenda. Quando venerdì pomeriggio una compagna ha avuto una molestia, l'ha denunciata sui social e ha chiesto a noi cosa ne pensate, se magari invitiamo, se qualcun'altra anche si è sentita, ha ricevuto delle molestie, dei trattamenti violenti di vario genere. E quindi abbiamo lanciato su Instagram l'invito a denunciare, e quindi ci hanno scritto tantissime persone immediatamente, numeri che sono aumentati il sabato e la domenica. Siamo arrivati, abbiamo superato le 150 testimonianze, fra l'altro anche di persone, ragazze che stavano lavorando, che sono state costrette ad esempio a sedersi sulle ginocchia degli alpini, o a cui sono state fatte delle avance molto pesanti, perché essendo sul lavoro non potevano nemmeno scappare, quindi non era possibile nemmeno davvero difendersi, insomma. E chiaramente con questo è arrivato il clamore, che non ci aspettavamo onestamente, siamo anche abbastanza contenti, diciamo, del clamore, nel senso che perlomeno vuol dire che sono temi che sensibili per molte persone, vuol dire che alla gente, a qualcuno importa, insomma. Sono arrivati giornali, radio, eccetera, che ci hanno chiesto appunto di raccontare, anche alcune persone che avevano scritto la loro testimonianza hanno parlato anche con i giornali. Adesso il prossimo passo sarà andare avanti, insomma, quindi sicuramente affiancare le persone che vorranno denunciare, perché ci rendiamo conto che comunque è sempre difficile fare una denuncia per molestia a livello proprio di essere credute e vedere in qualche modo, insomma, giustizia. Quello che vogliamo noi non siamo giustizialiste, non ci interessa il giustizialismo, ci interessa che ci sia una presa di posizione per un cambiamento di paradigma, quindi anche soltanto dire ok, sì, ci sono stati degli errori, perché probabilmente non abbiamo fatto della formazione specifica, per cui noi ci siamo resi disponibili peraltro per fare della formazione specifica sul consenso, cosa su cui noi lavoriamo sempre, continuamente, anche nelle nostre feste, noi continuamente, insomma, perché sappiamo che quando metti tante persone insieme è chiaro che può accadere il fastidio, comunque la persona che non comprende il consenso, e quindi ci siamo resi disponibili, quindi sarebbe bastato, insomma, questo. Invece il loro comunicato è stato: sicuramente non erano alpini, sicuramente erano persone che hanno comprato un cappello alla bancarella. Insomma, noi abbiamo anche video con persone che avevano la divisa, oppure addirittura sicuramente erano ragazzini e gli alpini hanno tutti più di 38 anni, e invece abbiamo anche video di sessantenni, settantenni che danno su alle ragazzine. Infatti una cosa che a me ha stupito moltissimo, ma forse non c'è troppo da stupirsi, è proprio quest'ennesima normalizzazione e giustificazione che di fatti sulle molestie, sul catcalling succede praticamente sempre, però nello specifico, essendo questa situazione, essendo un corpo militare specifico apparentemente amato dal mondo intero, allora è lì che proprio viene completamente, appunto, giustificata e normalizzata la violenza, perché di questo si tratta, che addirittura normalizzata quasi come fosse una nota di colore degli alpini, perché ci hanno anche scritto: ah, ma dai, si sa che loro sono goliardici, che hanno dei modi di fare un po' rozzi, ma cercare di leccare la barista non è un modo di fare rozzo. Cioè, un modo di fare rozzo è che ti scappa un rutto dopo aver bevuto la birra, o dire a delle ragazzine: vedi che ce la faccio perché prendo il Viagra. Non è un modo di fare rozzo, darci alle ragazzine non è un modo di fare rozzo, è praticamente pedofilia. Quindi c'è un po' di confusione su questa storia qua, e hanno coperto nella maniera più ridicola, veramente. Il comunicato è ridicolo. Noi non invitiamo alla denuncia perché non ci fidiamo delle forze dell'ordine, però purtroppo sarebbe una cosa interessante inondare il comune e le persone responsabili, sarebbe carino venissero inondate di denunce, perché sarebbe veramente un segnale. Quello che diciamo noi è che se qualcuno vuole denunciare, noi sappiamo benissimo che non è facile, tante volte non vieni creduta, ma noi ci siamo anche per accompagnare, appunto, anche per sostegno. Abbiamo contatti anche con avvocato e associazioni che ci possono sostenere da questo punto di vista, e poi anche riprenderci la città, perché ci siamo sentite davvero violato nella nostra quotidianità. Vedere la città militarizzata, per noi che non crediamo nella militarizzazione, nella guerra, nelle armi, è stata veramente una violenza forte, e non potevi scappare da nessuna parte.